Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questo brano dei Creedence Clearwater Revival degli anni 70 iniziamo l'incontro di oggi con Francesco Daveri. Prima di presentarvi chi è Francesco Daveri, chiediamo a lui perché questo brano. Perché dopo gli anni 70 per me non c'è quasi stata più musica, anche se ero ancora al liceo, insomma, negli anni 70, però più o meno per me è stato così. Cioè, dopo i Beatles, dopo i no, rock? No, i Beatles e Rolling Stone erano prima, invece qua, insomma, prima comunque hanno cominciato anche prima, però invece la musica tipo i Grateful Dead e quelli, insomma, di Woodstock, quelli erano quelli che mi piacevano di più. Ma non vogliamo parlare di musica come è nella tradizione di questi incontri, anche perché Francesco Daveri è professore di politica economica presso l'Università di Parma, insegna al programma MBA della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi, collaborato con la Banca Mondiale, col Ministero dell'Economia, scrive sul Sole 24 Ore ed è anche uno degli animatori del comitato di redazione della Voce.info, che è uno sito tra i più autorevoli di critica alla realtà politica ed economica italiana, critica in tutti i sensi, non necessariamente critica in senso solo distruttivo. Allora, Francesco Daveri, iniziamo parlando di economia. Come mai dopo essersi appassionati per la musica ci si occupa di economia? Bella domanda, chissà, io in realtà avendo fatto il liceo classico inizialmente volevo iscrivermi a una facoltà di lettere o qualche cosa o di storia al massimo, però ho ascoltato un po' quello che soavemente mia mamma suggeriva in un orecchio dicendo ma poi col lavoro come fai? Allora ho accettato il consiglio di iscrivermi alla Bocconi in questo corso che si chiamava Discipline Economiche e Sociali, che aveva dentro sociali come parola, e quindi questo mi ha intrappolato poi a studiare economia, perché una volta lì ho capito che della dizione Discipline Economiche e Sociali era economiche la voce principale e di sociali invece c'era abbastanza poco. Ecco, l'economia non va tanto per la maggiore, sembra che l'economia crei più problemi di quanto ne sia capace di risolvere in questa fase. Sì, cioè noi economisti, insomma, che continuiamo a voler fare questa professione e indubbiamente siamo in tanti, abbiamo sì questo problema di credibilità nei confronti del resto della società, perché tutti, a cominciare dalla regina d'Inghilterra, ma per continuare con il Papa e non so chi altro di più importante nominare, ci attribuiscono una responsabilità molto precisa per non aver saputo prevedere l'arrivo della crisi. Ecco, si chiede all'economista di fare un po' il profeta, di capire un po' il futuro, di leggere il futuro. L'economia certamente ha un po' di strumenti per capire come vanno le cose, però non bisogna dimenticare che l'economia poi è fatta dalle persone. Le persone è difficile capire perché non si muovono sempre razionalmente, così. Questo sì è parte della cosa. Naturalmente è complicato riuscire a fare delle previsioni che vanno a finire in un numero tipo il tasso di inflazione piuttosto che la crescita dell'economia o il deficit pubblico, quando ci sono milioni di persone o centinaia di milioni di persone che concorrono, ognuno prendendo le decisioni in modo del tutto indipendente o molto indipendente rispetto alle altre, con condizionamenti sociali, ma naturalmente in modo relativamente autonomo, e poi il tutto magicamente deve stare insieme. In molti casi lo fa, e questa è la ragione per cui noi studiamo così frequentemente la magia del mercato. Dall'altro lato però c'è anche il fatto che i mercati di tanto in tanto non funzionano poi così bene come invece scriviamo nei nostri libri di testo, ma questo noi lo sappiamo e lo insegniamo ai nostri studenti, che il mercato non è sempre una buona cosa. Il mercato di concorrenza perfetta, cioè che è quello che si vede molto raramente, tende a produrre dei buoni risultati di efficienza, però non ci garantisce l'equità. Quindi vuol dire che se lasciamo il mercato, anche quello migliore, cioè quello in cui tutti possono entrare e uscire e quindi c'è la possibilità di far prevalere il migliore, insomma il migliore magari è uno che è nato fortunato perché ha studiato e quindi riesce ad andare meglio degli altri, e alla fine si trova che guadagna molto più di tutti gli altri. E allora cosa si deve fare di fronte a questo? Questo è un altro tema che affronta l'economia, quello dell'equità, ma forse su questo siamo meno bravi. Ecco, forse l'obiettivo del mercato è proprio quello dell'efficienza e ci riesce molto bene, non è quello dell'equità, e qui dovrebbe intervenire la politica a fare la sua parte nel correggere quello che dove il mercato non arriva. In fondo il mercato funziona, anche la grande crisi del 2009 è una dimostrazione che il mercato funziona, perché è stata una crisi che ha portato a nuove condizioni di equilibrio. C'erano degli squilibri molto forti, c'è stata una crisi molto forte. E forse è la politica economica che manca più che il mercato. Alcuni di noi, io sono tra questi, pensano che ci sia stato proprio anche però un fallimento di politica alla base della grande crisi del 2009. Cioè, la grande crisi è derivata dal fatto che un po' ci sono state politiche monetarie esageratamente espansive per troppo lungo negli Stati Uniti, e dall'altro lato si è lasciato fiorire e diffondersi una varietà di strumenti finanziari di cui nessuno capiva anche solo l'ABC per la maggior parte delle persone che li compravano, oltre magari anche a molti di quelli che li commerciavano. E quindi questo ha prodotto un risultato che era certamente ben al di là delle intenzioni. Detto questo, naturalmente è una situazione complicata da prevedere, però c'è anche da dire che c'è solo una persona che non sbaglia le previsioni, è quello che non le fa. E quindi siccome c'è bisogno di fare le previsioni, io difendo la nostra categoria come quella che può provare a fare le previsioni, sì, e vinca il migliore. Insomma, ci sono buoni economisti e cattivi economisti, qualche economista che ci azzecca di più e qualche altro che ci azzecca di meno. Fare le previsioni è estremamente facile, indovinarle è un po' più difficile, certo, indubbiamente. Ecco, ma allora, guardando un po' proprio alla crisi, c'è chi dice, proprio tra voi economisti, che le misure che sono state prese per affrontare la crisi non fanno altro che preparare la crisi successiva. C'è stato un momento in cui il timore più grosso era la deflazione, cioè di fronte alla grande crisi che si è verificata, che è stata diventata molto forte soprattutto dal lato della finanza, che ha spaventato tutti e che ha indotto tutti a rinviare le spese al futuro, cambiarsi la macchina ma anche cambiarsi il trapano in casa, cioè le spese più grandi e anche quelle che comunque sono più piccole di casa ma che se le prendono milioni di persone, cioè tante persone non comprano il trapano, caspita, uno che vende trapani gli fa una bella differenza, no? E quindi c'è stato questo momento, questo è stato un momento che quindi ha fatto diminuire molto la domanda della maggior parte dei quelli che noi chiamiamo beni durevoli, beni di consumo durevole e beni di investimento, prima di tutto naturalmente il settore automobilistico. Questo è stato il primo passo. Allora, di fronte a una situazione di questo tipo, la terapia classica, quella che qualcuno si ricordava dagli anni 30, soprattutto in realtà il governatore della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, Bernanke, non perché fosse là negli anni 30, ma perché è diventato professore a Princeton studiando proprio la grande recessione, e lui ha saputo subito cosa bisognava fare. Bisognava tagliare i tassi di interesse che poteva controllare lui, cioè quelli che la banca centrale fa pagare alle banche commerciali, più bassi che si poteva, e quando è arrivato a zero, come con questo limite inferiore, cioè ha raggiunto meno di zero non si poteva fare, ha cominciato a fare di più, ha cominciato a tentare di sostenere il valore di mercato delle banche, cioè di sostenere i bilanci delle banche, comprando i titoli che nessuno voleva comperarsi, quelli dei mutui subprime. Questa risposta è stata una risposta che bisognava fare in quel momento, e quello che è più controverso è se la politica fiscale sia stato giusto che sia stata così espansiva, perché certamente ripagare i debiti pubblici che sono stati contratti negli Stati Uniti ma anche in Europa richiederà decenni, non richiederà anni. Quindi ci sarà bisogno di una politica economica molto vigile, molto attenta anche per i prossimi anni. Poi magari nella seconda parte parleremo della realtà italiana, però vorrei chiudere appunto questa prima parte ancora con uno sguardo un po' complessivo. Abbiamo un mondo che cammina non a due ma a 3, 4, 5 velocità ormai, una Cina che va molto forte, gli Stati Uniti che vanno forte ma non altrettanto, e soprattutto l'Europa che cammina in maniera molto diversa. Questo porterà anche a nuovi squilibri? Probabilmente ci sono ancora un po' di cose che vanno aggiustate, andranno aggiustate nel corso del tempo e con gradualità, perché non si può. I cinesi stanno già consumando molto più di quanto facevano in passato, però non si può portare facilmente l'abitudine a consumare del 35% del PIL, non può diventare il 60% del PIL rapidamente. Questo ha delle implicazioni sul fatto che siccome consumano poco, la maggior parte della loro produzione va all'estero, viene comperata dagli americani, che quindi possono continuare a consumare più di quanto si potevano permettere, ecco, finché Hu non gli dirà che il dollaro non è più la valuta che viene usata. Nel recente incontro che c'è stato tra Hu e Obama ha insistito perché i cinesi diventassero più ricchi, spendessero un po' di più, cioè ha invitato i cinesi ad essere più capitalisti. E forse una delle risposte che immagino gli abbia dato anche Hu è stata quella che loro si stanno mettendo di buzzo buono per diventare ricchi, insomma. Incontri. Avete mai visto la pioggia? Questo è il titolo del brano dei Creedence Clearwater Revival che abbiamo utilizzato all'inizio del nostro incontro con Francesco Daveri, con cui riprendiamo questa seconda parte. Nella prima parte abbiamo affrontato con Daveri, che ricordo è professore di politica economica presso l'Università di Parma, i grandi temi della crisi generale, e adesso andiamo a vedere come sta l'Italia, come sta il nostro paese di fronte a questa crisi, un paese che ha tanti problemi, in cui c'è una certa crescita ma è un po' lenta. Possiamo parafrasare questo titolo: avete mai visto la pioggia? L'Italia vedrà un po' di sole nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Ma di pioggia mi sembra che ne abbiamo vista, insomma, questo sì, e quindi forse è una domanda un po' retorica quella che a questo punto ponevano i Creedence qualche tempo fa. Di sole abbiamo cominciato a vedere qualche raggio e il più 1% a cui siamo tornati, secondo i dati più probabili per il 2010, siamo nel 2011, ma a causa del ritardo con cui escono le statistiche naturalmente siamo ancora qui, che diciamo il 2010 probabilmente sarà una cosa come l'1%, ed è così, ed è il grosso modo il nostro tasso di crescita, il tasso di crescita medio del nostro PIL per gli ultimi 15 anni circa. Quindi siamo ritornati a fare con il 2010 quello che facevamo prima. Se confrontiamo però la fase attuale di ripresa, cioè quando si esce dalla recessione, normalmente le economie hanno uno scatto in su, no? Così è successo per esempio nel 2006-2007, e se confrontiamo però allora avevamo più 2%, non più 1%. Quindi una delle cose su cui vale la pena a mio avviso di riflettere è come mai questa volta abbiamo una ripresa a ritmo lento, no? Con un andamento lento, mentre... ecco, tenendo anche conto che è una ripresa a livello un po' più basso, perché rispetto agli anni dal 2000 al 2007 la produzione industriale per esempio adesso ha un indice di 90-91 rispetto ai 100 che c'era in quegli anni, quindi stiamo riprendendo ma siamo ancora molto bassi rispetto anche a prima. Certo, quindi c'è anche da considerare il fatto che partiamo da una base che è comunque più bassa, quindi vuol dire che ci vorranno ancora vari anni per ritornare ai livelli del 2006-2007. Una delle possibili spiegazioni è, se si guarda un po' alla disaggregazione dei dati sulla crescita del PIL, si vede che anche in questo caso, come già nel 2006, sono le esportazioni che ci stanno tirando fuori dalle peste, insomma. Però rispetto ad allora, invece, quello che vediamo è che c'è stato un boom delle importazioni. Un po' è il fatto che è risalito rapidamente il prezzo del petrolio a causa un po' del fatto che non costa nulla prendere a prestito sui mercati finanziari, quindi speculare comprando in anticipo il petrolio perché si pensa che la crescita mondiale dipenderà dalla Cina, e la Cina ha tanta sete di petrolio, è una cosa che è uno sport molto frequente sui mercati finanziari, insomma, di questi tempi. Però c'è qualche cosa di più, anche se i dati aggregati non ci danno ancora abbastanza informazioni su questo, cioè il boom che avviene troppo presto e troppo forte delle importazioni, che succede un po' in tutte le fasi di crescita, ci segnala che per esportare noi dobbiamo importare anche di più, perché le nostre grandi imprese che esportano hanno bisogno di tanti fornitori per riuscire a sostenere la concorrenza internazionale. Evidentemente in passato c'erano più fornitori interni che riuscivano a sostenerla in questa difficile competizione, sempre più dura competizione globale. Adesso fanno evidentemente più ricorso a fornitori esteri. L'altra cosa è che i consumatori probabilmente nel corso del tempo sono globalizzati e quindi comperiamo tutti più facilmente delle cose prodotte fuori. Quindi gli italiani dovrebbero fare un po' come i cinesi, dovrebbero consumare di più. I consumi in Italia sono consumi fermi, sono ormai strutturalmente fermi. Questo anche perché in fondo la popolazione italiana è strutturalmente ferma, non c'è una crescita demografica. C'è una componente demografica naturalmente che frena, insomma, uno consuma se è ottimista, se quindi insomma è più facile essere ottimisti, almeno una volta era più facile essere ottimisti da giovani, oggi non so bene se sia più facile essere ottimisti da giovani con i chiari di luna che ci sono sul mercato del lavoro, perché questo è l'altro tema invece che frena i consumi, cioè le famiglie tendono a essere preoccupate perché magari hanno più componenti della famiglia che hanno lavori precari o che hanno perso il lavoro, che sono in cassa integrazione, e quindi siccome le decisioni di consumo spesso hanno un importante componente familiare, è naturale che cresca il cosiddetto risparmio precauzionale, cioè uno non sa come sarà il domani e quindi rispetto al passato guadagna magari la stessa cifra ma mette da parte più soldi, e questo incide sui dati di consumi complessivi. Ecco, uno degli ultimi libri che ha scritto Francesco Daveri è Stranieri in casa nostra, sul tema dell'immigrazione. Si parla tanto di immigrazione come anche opportunità per risolvere un po' il nodo strutturale della crescita. Gli immigrati sono quelli che impediscono per ora che la popolazione italiana diminuisca. Se non ci fossero gli immigrati, la popolazione diminuirebbe, e in certo modo sono loro che attualmente pagano contributi senza ricevere immediatamente delle pensioni, quindi sono coloro che garantiscono un certo equilibrio. Possiamo guardare al fenomeno dell'immigrazione come una delle possibili soluzioni? Ma io non credo in realtà che verrà da, insomma, i problemi della bassa crescita italiana vanno probabilmente affrontati chiedendosi come mai stanno diventando meno competitive le nostre piccole imprese, che non riescono a reggere la concorrenza internazionale. Le piccole imprese, tra l'altro, usano tanto gli immigrati, le usano dando loro dei contratti che non sono sempre, per così dire, registrati ufficialmente. Quindi il ruolo che hanno gli immigrati nella nostra economia è certamente, come giustamente sottolineava, il fatto di fare lavori che gli italiani preferiscono non fare più o non fare affatto. Come le nostre case sono piene di badanti, di colf e così anche quando usciamo per strada, andiamo nei mezzi pubblici la mattina presto, vediamo le facce stanche degli immigrati che ritornano a casa, che stanno andando a lavorare, sono molto più frequenti delle facce degli italiani che si svegliano un po' più tardi rispetto alle 6, 6:30 o 7. Però rimane il fatto che non sarebbe giusto nascondere il fatto che l'immigrazione, oltre a darci la possibilità, a darci un po' di fiato dal punto di vista demografico, pone al momento, proprio per le modalità in cui è avvenuta, dei problemi e delle criticità, nel senso che gli immigrati in Italia erano 1,5 milioni all'inizio del 2000 e oggi sono 5 milioni. È stato indubbiamente uno shock anche culturale, non semplicemente uno shock positivo demografico, e ha portato in sé, porta con sé l'arrivo di tanti stranieri, tante persone più povere di noi, diverse da noi per tante abitudini. Guai per le politiche sociali, oltre più che per il mercato del lavoro, oltre che per gli aspetti magari anche di criminalità che sono in qualche modo associati, non certamente alla maggioranza di loro, ma magari alla frazione di clandestini che sono più frequentemente coinvolti in cose di questo tipo. I problemi che vengono fuori per le politiche sociali sono quelli degli amministratori locali, che a volte si trovano a dover stilare delle liste complicate per stabilire a chi vanno le case, certo, popolari, chi ha diritto a ricorrere al pronto soccorso, come si fanno a fare delle classi in cui si impari qualche cosa avendo magari una grande varietà di etnie presenti. Questi sono i problemi cruciali che bisogna provare ad affrontare con coraggio, senza negare l'esistenza di questi problemi, con un po' di inventività. Una realtà che è comunque quella di una società che ormai è multietnica e deve tener conto di questa multietnicità. Ma allora, tornando ai temi della ripresa italiana, bisogna sfogliare come una cassetta degli attrezzi un altro libro di Francesco Daveri, Innovazione cercasi. Questo, il tema dell'innovazione, è il tema forse centrale per la competitività, che si diceva essere uno dei problemi di fondo soprattutto delle piccole e medie imprese. Eh sì, l'innovazione è un po' la parola magica che si sente, che tutti dicono. Naturalmente lo si diceva prima della crisi, ma non è passata di moda durante la crisi. Anzi, essendo passati da una situazione di inflazione, che ricordiamo fino al 2008 era stata, a un certo punto era arrivata al 3,5% sotto la spinta dell'aumento del prezzo del petrolio. L'inflazione è andata giù a zero poi durante la crisi, perché appunto quando non c'è più domanda in giro certamente le aziende non aumentano i prezzi dei beni, perché non gli viene in mente, ecco, hanno difficoltà a collocare i beni che hanno al prezzo esistente, anzi considerano magari di fare sconti e cose di questo tipo, che hanno fatto effettivamente. E per il futuro l'inflazione, se riparte, riparte a causa dei costi ancora una volta, e non perché le aziende riescano a fare maggiori ricarichi sul mercato interno, che continua a essere piuttosto asfittico per la difficoltà di redditi e che si traduce in consumi il cui andamento è ancora piuttosto deludente. Quindi come fanno a far quadrare i bilanci le aziende se non attraverso l'innovazione, che non deve essere puramente di tipo difensivo, cioè l'innovazione che porta a ridurre i costi è solo una parte della cosa, ma deve essere anche naturalmente un'innovazione che porti a creare nuovi prodotti, perché attraverso i nuovi prodotti si riescono ad aprire nuovi mercati. Il nuovo prodotto può anche essere semplicemente fare lo stesso prodotto che ha avuto un successo in un mercato lontano, riconfigurarlo per una zona completamente diversa. Quindi non è detto che il pomodoro possa essere venduto, o le conserve di pomodoro possano essere vendute ugualmente ai cinesi piuttosto che agli americani, perché i cinesi non mangiano gli spaghetti, mentre magari gli americani hanno imparato a mangiarli per bene. Insegnare ai cinesi a mangiare gli spaghetti, e forse troveremo anche dei nuovi sbocchi per l'industria italiana. Questa è una possibilità, non so se è la cosa forse a cui affidare la crescita economica italiana. Quello che si può pensare di fare è vendergli le macchine che servono per fare le conserve di pomodoro, e fargli vendere poi le conserve di pomodoro ai giapponesi, che mangiano invece gli spaghetti. Allora citerei un altro libro che ha scritto Francesco Daveri insieme a Carlo De Benedetti e Federico Rampini, 100.000 punture di spillo. Ecco, non ne parliamo di tutte 100.000, però un esempio di queste punture di spillo per il paese. Ma insomma, nel libro, allora, che cos'è la puntura di spillo? Forse questa è la cosa che si può sottolineare. L'idea che avevamo avuto era che la globalizzazione ci può fare tanta paura, e anche il fatto che vengano tante persone diverse dalle nostre e che ci fanno, magari ci spaventano più di quanto invece ci mostrino delle opportunità. Ecco, le punture di spillo sono delle cose che fanno un po' male oggi, ma che ci tengono svegli. Ciò di cui c'è bisogno è di stare più svegli e di stare attenti a cogliere le opportunità che ci sono là fuori. Quindi questo vuol dire essere svegli, e che una famiglia guardi bene dove iscrivere i propri figli all'università, per esempio, anziché iscriverla nell'università sotto casa prendendo il corso che c'è. Ecco, andare a cercarne un altro, stando un po' attenti e facendosi delle domande da qui a un po' di anni. I milanesi direbbero far balla luce, cioè essere attenti alle cose, non guardare le cose come se fossero tutte scontate. Sì, far balla luce mi sembra una buona traduzione. Grazie mille. Dopo aver cominciato con un brano americano, chiudiamo in milanese questo incontro con Francesco Daveri, che ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Pietro Locorte in regia e Anita Panizza in redazione. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato e ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ripreso e riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.